La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Edo 24, grazie per l'ascolto in diretta in podcast, qui la versione di Oscar in diretta dagli studi di Milano. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, e vi dico subito, per chi volesse intervenire all'800240024, che oggi parliamo degli studi tecnici, quindi della formazione professionale nel ciclo della secondaria superiore. E perché? Ne parliamo perché continuiamo ad essere un paese che non guarda uno dei punti di fondo in cui si accentra lo squilibrio tra la richiesta di profili di tecnici per dare lavoro da parte delle imprese e ciò che in concreto offre la nostra formazione della scuola pubblica. Non è un tema che riguarda solo la secondaria, riguarda anche l'università e l'istruzione post-terziaria. Mille volte mi avete sentito dire che la natura delle specializzazioni economiche e industriali del nostro paese avrebbe chiesto, non a giudizio mio che conta poco, ma a giudizio di molti tecnici della formazione e dell'istruzione, in termini comparati qualcosa di analogo al sistema della formazione pubblica della scuola e dell'università tedesca, che ha da sempre significa dall'inizio del Novecento, ma ha anche mantenuto nel secondo dopoguerra un sistema totalmente duale, quindi in cui il canale della formazione tecnico-professionale ha non solo eguale dignità, ma prevalente dignità rispetto a quelli che sono i classici licei, poi riformati, ma insomma liceo classico, liceo scientifico, linguistico nel nostro ciclo della secondaria, ma anche rispetto alle formule dei diplomi di laurea 3+2 e dei dottorati post universitari. In Germania la stragrande maggioranza degli studenti frequentano nella secondaria il canale professionalizzante, e oltre il 40% degli iscritti all'università frequenta corsi in vista dei diplomi che sono professionalizzanti. Noi abbiamo fatto una scelta dalla riforma Gentile del 1923 per così dire inferiore dignità di quello che era la scuola di avviamento, poi rimasta fino alla riforma della scuola media nel 1963. Negli anni 60 e 70 l'istruzione tecnica è rimasta, ma i licei hanno continuato a rappresentare agli occhi di tante famiglie il canale attraverso il quale dare migliori chance ai propri figli in futuro, e il più, la quasi totalità del nostro ciclo terziario e post-terziario non è direttamente professionalizzante. In Germania ci sono poli universitari specializzati addirittura per singola vocazione della manifattura o dell'industria, cioè c'è il polo dell'industria meccanica, c'è il polo universitario dell'industria componentistica, c'è il polo universitario per l'industria dell'auto, c'è il polo, anzi più poli specializzati nella siderurgia e metallurgia. Ci sono tre poli specializzati nelle nanotecnologie e nuovi materiali. Ecco, da noi questa via non è stata seguita, e secondo me molto utilmente il Sole 24 Ore, questo è lo spunto, il 13 giugno pubblica un bell'articolo che fa il punto di quanti studenti abbiamo perso in 10 anni nell'istruzione tecnica, e ne abbiamo persi un'infinità, a dire il vero, perché abbiamo perso 117.000 iscritti, pensate, nell'istruzione tecnica nei 10 anni precedenti all'anno scolastico 2016-2017. Naturalmente questo abbraccia l'intero segmento della scuola superiore che un tempo dava i geometri, i ragionieri, poi i periti nei campi della meccanica, elettronica, trasporti, chimica, tessile, e ha perso quasi 120.000 studenti. non è una questione solo di demografia, perché questo calo di studenti nel canale professionalizzante è a fronte invece di un aumento netto di quasi 40.000 unità nei licei, e quindi il motivo di questo crollo resta in buona sostanza, da una parte, il fatto che non abbiamo un sistema di orientamento efficace nella scuola pubblica. L'orientamento significa fornire alle famiglie e agli studenti numeri, indicatori precisi che possano appunto orientarli nella valutazione di quei profili che sono maggiormente richiesti allo stato attuale, ma di cui si prevede anche un potenziamento o invece un indebolimento nella domanda di lavoro da parte delle imprese. Questo sistema di orientamento non c'è, non funziona. Ci sono molte esperienze territoriali in cui i sistemi delle imprese fanno toc toc e si offrono loro di farlo, ma di fatto non c'è. Non aiuta poi, ma questo è un giudizio magari che divide gli esperti della scuola pubblica, non ha aiutato a quanto pare nemmeno la riforma delle discipline che è avvenuta con via via con le diverse riforme della scuola nel canale dell'istruzione tecniche. Molte famiglie e magari anche molti studenti valutano il fatto che c'è nel canale tecnico sono previste 32-33 ore a settimana contro le 28 ore di un liceo, e la valutano quindi come un percorso troppo gravoso. La pratica nei laboratori resta scarsa, e tutti questi fattori concorrono a un fenomeno che poi porta a una cifra su cui c'è una larghissima convergenza a oggi, intorno a 50-70.000 profili tecnici, di cui le imprese oggi, sia pure in presenza degli anni terribili che abbiamo alle spalle e con una produzione industriale che abbiamo perso pari a un quarto dagli anni della crisi, e però a oggi ci sono dai 50 ai 70.000 profili tecnici che le imprese italiane non riescono a coprire. Ecco, nel frattempo, nelle diverse riforme della scuola, è anche sparita proprio al Ministero, in tutto e per tutto, quella che un tempo era la Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica. Questo è avvenuto quando al Ministero la responsabilità del Dicastero era di Maria Chiara Carrozza. Questo ulteriore fattore istituzionale ha ulteriormente contribuito al decadere di questo canale, che invece dovrebbe essere considerato prioritario. Allora, questo è lo sfondo sul quale tentare di riflettere, e io vi chiedo francamente se, avendo dei figli in famiglia, perché è più probabile che a quest'ora ci ascoltiate voi piuttosto che direttamente i vostri ragazzi, che cosa vi ha indotto o a iscriverlo o a convincerlo o ad assecondarlo se voleva andare in uno degli istituti tecnici, oppure invece a fare una scelta diversa, perché mi interesserebbe capire proprio quali sono i criteri per questa scelta che oramai è diventata di fondo nel nostro sistema della formazione pubblica, e che però provoca delle conseguenze negative sia per l'occupabilità dei giovani, in parte spiega perché malgrado il Jobs Act gli occupati aggiuntivi siano stati tutti nella coorte anagrafica superiore ai 50 anni e li abbiamo invece diminuite nelle coorti più giovani, e contemporaneamente non è certo un motivo di soddisfazione, perché dall'altra parte abbiamo invece diplomati che escono dai licei o laureati in moltissime specializzazioni che naturalmente lamentano poi di avere un'occupabilità con qualifiche e retribuzioni e contratti a tempo che considerano a quel punto non adeguati rispetto al percorso che hanno invece seguito. Allora, cominciamo col sentire una delle opinioni sul campo, visto che molti continuano a non credere alla valutazione poi che viene ripetuta nel rapporto Excelsior che esce ogni sei mesi proprio sulla valutazione da parte delle imprese delle domande di lavoro nelle specializzazioni tecniche che non vengono coperte. Molti continuano a credere che sia una cosa non attendibile. E allora sentiamo direttamente un imprenditore per dirci se nella specializzazione della sua impresa è un'impresa di successo, in forte crescita. Stiamo parlando di una impresa che ha obiettivi di crescita in tutta Europa, è attiva nel sistema, nel settore dei sistemi idraulici e si chiama Oleobi Italia, è un'impresa che sta a Cadriano, poco fuori Bologna, ed è con noi il presidente e amministratore delegato Massimo Dovesi. Buon pomeriggio e grazie di aver accolto il nostro invito. Buon pomeriggio a lei, buongiorno. Allora, che tipi di figure, di che tipi di figure ha bisogno un'impresa come la vostra? Ma allora, innanzitutto la ringrazio per l'introduzione che ha fatto, perché ha toccato alcuni punti che magari dopo possiamo approfondire, che sono assolutamente centrati. In generale, per rispondere alla sua domanda, un'azienda come la nostra ha bisogno sia di tecnici specializzati nel settore dell'idraulica, della meccatronica, quindi delle persone che hanno una competenza molto dettagliata su questi argomenti. E non sempre questo tipo di competenze sono cose che si ritrovano in chi ha fatto un percorso di laurea e soprattutto chi compie un percorso di laurea poi ha anche delle attese lavorative di un certo tipo, indipendentemente dal tipo di percorso, e nella fattispecie, nel caso tecnico, sono persone che poi hanno mire di inserimenti magari differenti da quelli di una realtà che opera in maniera specializzata e che nella nostra rete, imprenditoriale bolognese è molto si trova di frequente. Noi siamo una regione che vive sulle piccole e medie imprese, non scordiamoci. Come è classico dell'intero, è una classicità questa di dimensionale del sistema delle imprese, anche industriali e manifatturiere italiane, cioè non siete l'eccezione, siete la regola assoluta. Sono d'accordo, sì, certamente. Ecco, quindi l'avere queste aziende fortemente specializzate in tanti settori, lei prima ha parlato di vari poli, anche noi ne abbiamo vari, e ci sono appunto queste necessità di tecnici fortemente specializzati e si fa fatica a trovarli, si fa fatica a reperirli, e perché vengono, diciamo così, non so che termine utilizzare, forse il termine vengono proprio presi di mira ancora prima che finiscano gli studi e di conseguenza poi portati in azienda con stagio o altro, e dopo le aziende che arrivano fra virgolette per ultime fanno poi fatica a trovarne e si rivolgono in maniera errata e poi a persone che magari hanno una qualifica di laurea, quindi delle persone laureate che però, tornando al discorso di prima, non è poi detto che possano vedere in un percorso da ufficio tecnico per quanto specializzato come un percorso di soddisfazione. Allora, in alcune realtà del nord le strutture territoriali delle imprese, io non sto parlando solo di Confindustria, perché questa è una questione che riguarda tutti, che riguarda gli artigiani, per esempio. Per chi conosce, per esempio, l'Emilia, non si stupisce del fatto che c'è un'attenzione su Industria 4.0, pure la CNA. Io ho fatto un fantastico convegno, per esempio, alla CNA di Modena, che ha 8.000 iscritti, perché le filiere meccaniche del modenese, stiamo parlando di eccellenze mondiali nel campo dell'auto, a Modena, hanno negli anni, nei decenni, esternalizzato lavorazioni di componentistica eccetera eccetera, anche ad alto valore aggiunto, a imprese che a tutti gli effetti sono artigiane e sono esse per prime, quindi non è solo l'industria manifatturiera interessati al fatto che di tecnici se ne trovano pochi e quindi c'è la gara a contenderseli. In pezzi del nord i sistemi delle imprese hanno fatto toc toc, mettendo anche soldi, tentando di collaborare meglio con gli ITS, che sono gli istituti tecnici superiori, ma non si risolve con gli ITS, che sono pochi, pochissimi in realtà, non si risolve il problema che riguarda invece gli istituti tecnici del canale secondario. A casa vostra come vi siete organizzati? Vi siete messi in maniera collettivamente con le imprese oppure no? Allora, noi abbiamo innanzitutto abbiamo iniziato questo percorso da poco perché ci siamo inseriti in un'azienda che era stata fondata negli anni 80 e abbiamo subito notato appunto l'esigenza poi di far crescere dei tecnici al nostro interno, quindi è un'esigenza che è partita non da molto. Noi abbiamo, abbiamo cercato di andare a sensibilizzare i ragazzi negli istituti, abbiamo partecipato a un'attività che a Bologna è stata era visibile, si chiamava La scelta che rifarei, volta a sensibilizzare chi si appresta a scegliere la scuola superiore e appunto a spiegare che c'è una grande necessità di tecnici nel nostro territorio. Quindi io per primo sono andato in alcuni istituti a appunto spiegare che la scelta tecnica di fare l'istituto tecnico è una scelta che può rivelarsi molto vincente per le ragioni che lei stava spiegando. Non si può guardare soltanto appunto al liceo e a, no, ma poi tra l'altro, se uno dà un occhio, certo, se manca un sistema che ti informa, però se uno dà un occhio alle specializzazioni territoriali, è anche il canale che non solo aumenta la possibilità di occupabilità presto, ma soprattutto che consente di farlo, ripeto, assecondando la vocazione di chi è presente, magari sta crescendo nei propri territori, senza dover né abbandonare il paese. 117.000 giovani hanno abbandonato il paese nel 2016, e voglio dire, non stiamo parlando di numeretti, stiamo parlando di un fenomeno generazionale oramai incredibile, che insieme alla curva demografica depressa dovrebbe essere, ed è il problema della produttività italiana. Il problema della produttività ha un capitolo fondamentale, che è quello del capitale umano, perché la produttività non è fatta solo dalle macchine, dall'automazione, è fatto dalle capacità, le capacità tecniche, ma la capacità anche transizionale. Questo mondo è veloce, non è più semplicemente il pesce grande che mangia il pesce piccolo, come era nel fordismo, è il pesce più veloce che, rispetto a quello più lento, va meglio sul mercato. Allora, per me c'è anche questa seconda cosa che mi rende incredulo di fronte al fatto che le famiglie non capiscono, non lo vogliono capire, ma probabilmente non hanno gli elementi per rifletterci sopra con i propri ragazzi, cioè sul fatto che il canale tecnico può essere la maniera per trovare lavoro vicino, se uno mira deliberatamente sui settori di specializzazione che sono quelli presenti nel territorio con vocazione storica, ma in crescita anche nel proprio territorio. Comunque io ringrazio Massimo Dovesi, sia perché è un'impresa straordinaria quella che guida, è un grande esperimento come ce ne sono migliaia in Italia e dalla parte d'Italia al cui traino dobbiamo il fatto la crescita resta, e dopodiché, dopo il traffico, torniamo con le vostre telefonate. La versione di Oscar. Allora, molte sms, c'è chi mi chiede per esempio: ma lei è mai stato dentro una scuola ITIS, una classe ITIS? Sì, molte volte, vado a fare diversi incontri e dibattiti, in generale trovo una carenza di dotazioni che dipende anche dal fatto che è un canale trascurato anche nei finanziamenti, e ci occupiamo attivamente di tentare di portare direttamente le imprese dentro. Non basta, però, quindi sono sincero, ho perfettamente presente le difficoltà di chi si trova a dover gestire poi ore e materie in cui, per primo, nell'esperienza che ho, molti insegnanti mi dicono chi le ha decise non aveva chiara l'idea di quale dovevano essere le priorità. Quindi credo, una mia idea generale, senza alcuna pretesa di essere un tecnico, di averla. Sentiamo direttamente però da chi ci ha telefonate. Da chi ci ha telefonato, cominciamo con Roberto che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Roberto, provincia di Vicenza, sono docente tecnico pratico. Sì. Voglio dire soltanto un paio di cose tra le miliardi di cose che avrei da dire. Sì. Allora, intanto, facendo sempre dell'orientamento, i genitori che hanno deciso che il loro figlio deve fare il liceo, anche se, diciamo così, verrà fuori dalle scuole medie con la sufficienza, non gli riesci a far vedere la tua scuola, istituto tecnico oppure il professionale, neanche se gli offre un pranzo. Davvero? Questo è una cosa terrificante. Mm. Poi, cioè, sono totalmente indifferenti alle prospettive di occupabilità. Assolutamente, ma il prestigio del liceo è sopra ogni cosa. Vabbè. Tutto qua. Poi avrei altre cose da dire, ma no, capisco, perché questo credo che sia uno dei maggiori e permanenti ostacoli, però è come stare con gli occhi chiusi di fronte alla realtà, come quando mi trovo a chi dice: ti sei iscritto a giurisprudenza, hai uno studio in famiglia? No. Hai già in mente un percorso di specializzazione che ti porta in alcune... No. E allora dico: perché? Però ecco, questa è la mia posizione generale. Stiamo Franco da Cuneo. Franco, prego. Mi ricordo che 50 anni fa mi sono diplomato per il industriale energia nucleare all'Avogadro di Torino. Ah, beh. Ecco, e siccome, no, ma dico subito a settembre con tutti e sei, ma perché questo? Non perché ero particolarmente deficiente, all'età di 8 anni maneggiavo col meccano, ho insistito per andare all'avviamento, no, che l'ascoltatore di prima, quando i genitori decidono, no, il bambino che dovrebbe decidere, io volevo andare all'avviamento perché lavoravano, niente da fare. Uscito dalle medie, dove ero il più bravo della scuola di latino, no, sapevo già parlare e esprimermi, no, ho dovuto studiare le materie umanistiche, ecco perché non ho approfondito, no, le cose tecniche, pur avendo poi lavorato al Politecnico e anche alla Microtecnica, no, mi trovo che dopo 50 anni non è cambiato niente, bisogna studiare le scienze umanistiche. Un mio compagno di scuola l'altro giorno mi ha detto: ma sai che all'esame ci hanno chiesto una roba della Divina Commedia? Allora un tecnico che deve maneggiare una centrale nucleare o anche solo una centrale elettrica. Ecco, in più l'apprendistato è stato distrutto da quel flagello dei sindacati, ditemi voi perché gli italiani continuano a darsi martellate sui coglioni. Ecco, ha usato una parola forte, ma ci sta secondo me. Paola da Roma? Sì, salve, io insegno proprio italiano e storia. Ecco, in un istituto tecnico professionale. Negli istituti tecnici commerciali però, mi rendo conto commercio. Che ha ragione l'ascoltatore di prima. Cioè, a parte, c'è uno scollamento totale tra quello che loro dovrebbero fare e quello che fanno. Anche nelle materie tecniche, a parte che non hanno gli strumenti, ecco, certo. Io parlo dei geometri, addirittura, cioè geometri e ragionieri, ma i geometri non hanno nulla, non hanno computer, sono scollati completamente da quello che sarebbe il loro futuro. Il loro futuro che è di tecnici che firmano perizie di grande responsabilità, oltretutto, ormai è molto cresciuto il loro valore negli anni, anche rispetto ai laureati, quindi... Ecco, vi abbiamo dato uno spaccato di testimonianze tra l'incuria e le priorità che mancano al nostro paese, tra sistema di orientamento e la mancanza delle risorse. Però di gente che ha le idee chiare sono milioni, secondo me. Peccato, come sempre, tenteremo di ripeterlo, forse cambierà qualcosa nel nostro arco di vita. Speriamo di sì, speriamo per i giovani. Continuate sulla 24, appuntamento con me domani mattina alle 8:20 a Tentino 2.